Già. Ero con Pomponio in PMR e ho sentito un bip, come ho acceso l'altra radio. Eccetera, sono entrato a salutarlo, pertanto fra poco mi guarda un programma in TV. E così, insomma, alla fine è un po', sta entrando un po' la sera. Vabbè, io ho acceso adesso. Ascolta Marco, siccome ho cambiato l'alimentatore, adesso ho messo uno stabilizzato da 13,8 e 3,5 A. Mi dici se il segnale è buono e se c'è per caso dell'alternata sotto. A spiegarci il volume e primi la portante. Io non ne sento, non mi pare di sentire nulla, sembra che vada tutto bene. Che alimentatore è? L'ho preso, è un Alfa elettronica con la pH, stabilizzatore di sicurezza supli di 13,5 A. Alfa elettronica Made in Parma, Italy. Ah, italiano. Avete parlato in due, c'è Pomponio anche di passaggio. Gli ho detto che ero qua un attimino, di passare un attimo qua. Se no gestire due frequenze mi viene male. Eia. Made in Palma, Italia addirittura. Cioè, fatto veramente in Italia. Miracolo. Break. Un attimo il break. Parma. Dove fanno il prosciutto, me? Parma. Ah, Parma. Allora, registrato il break. Sì, Parma. Ho capito, Palma. Figura, da Palma dov'è? Comunque sì, un miracolo che sia fatto in Italia, sperando che non mettano solo il marchio, lo sai com'è, no? Fanno fare in Cina, poi si mettono il marchietto loro e secondo loro è Made in Italy. Va bene, avanti il break. Buonasera Marco, buonasera Gianni e buonasera Antonello. Carlo da questa che vi saluta, vi cordializza. Vada buon'anima, buonasera, ben sentito, era ora. Allora come ti va lassù? Così, dai, diciamo. E tu dove sei? A casa tua o sei al ghetto? No, a casa. Postazione di fortuna, Antonè, però già mi senti, dai. Come ti ho detto io, hai fatto allora, hai messo la mia ringhiera e se l'ha presa in culo. Così non devi stare a casa a romperti le palle per il momento. Sì, esatto, come mi avevi consigliato tu, Antonè. Niente, quando ci passi uno di questi giorni così vedi. Vabbè, hai fatto bene, ma intanto me. Devi salire il soppalpetto, devi fare tutto quel giro lì, cazzo, devi stare a chiedere permesso, cosa del genere, a casa di uno, a casa dell'altro, eccetera, eccetera. Se la metti dentro il vaccino se la prende in culo per il momento. Poi in seguito te la prenderai come si deve, l'antenna soppalpetto e morirà di lì, morirà. Hai capito? Vai Marco! Antonello sempre parolacciaio, è molto colorito, come avrebbe detto Coso. Va bene, quindi Gianni, tutto procede bene comunque. Quanti ampere è per curiosità? 3,5. Nel frattempo saluto Antonello e Carlo. 3,5. Sì, sì, ma è Made in Italy come prosciutto. L'ho preso su eBay, è arrivato ieri pomeriggio, 22 euro. Eia, è buono, dai. Buono. Ma chissà che sia Made in Italy davvero. No, ti spiego. Hai presente il 747, il linearetto, no? Dentro c'è un RM Italy KL203. Anche lì vedi Made in Italy e poi però lo stesso lineare, identico dentro e fuori, lo vedi venduto da AliExpress con un nome Bagonghi, non so, con quei nomi strani. Quindi dubito che anche RM Italy, ad esempio, sia veramente italiana. Quello è Antonello, capito già. Cosa produciamo noi? Inflazione, non lo so, si sono venduti tutti i marchi della moda, le case automobilistiche, tutto abbiamo venduto, anche l'anima, ai cinesi. Ma è bello che i cinesi vengono da noi adesso, si vogliono sposare da noi, hai capito? Tu guardi su Facebook ce ne sono, allora 500 ce ne sono, mi voglio sposare, immediatamente, quindi no, non c'è nessun problema, non voglio sapere quanti soldi hai, quanti non hai, hanno scritto, eccetera, basta che mi sposi. Le cinesi, e allora sono la frutta, vabbè che non ci metto becco, dai. Va bene, Carlo, riprendi, io stacco a breve, molto a breve. Vai Carlo. Sì, io ero stamattina, mi ho fatto un giro per i cimiteri e sono andato a Bonorva, ho portato i fiori nella tomba dei miei genitori, sono rientrato che erano le 11, ero in compagnia di mio figlio. E poi, visto che ero con mio figlio, mi ha dato una mano e ho smontato tutto la secchiera e il lavandino del bagno, perché me ne ho preso uno nuovo di quelli che poi si mettono sospesi, hanno due cassettoni sopra e lo specchio è più piccolo, però è uno specchio contenitore, praticamente prendi, si solleva lo specchio e sotto ci sono due mensolette dove puoi mettere tutti i prodotti, molto più, diciamo, capiente dell'altro che avevo, e quindi stavo facendo queste cosettine, ero a casa, adesso non ne avevo più voglia, ho preso giusto le misure, poi domani se trovo un attimo inizio a piazzare il nuovo. Eia, insomma, stai cominciando a personalizzarti l'ambiente, dai. E beh, giustamente, se hai comprato è tua, puoi fare quello che vuoi. Avanti, Lubrofetta. Eia, vabbè, dai, io sono entrato così a gamba tesa a salutare. Niente, vabbè. Ragazzi, dai, ci sentiamo un altro momento, devo finire di saldare un paio di caffetti. E poi mi dedico a fare altro. Comunque, ciao Antonello, di nuovo, e cazzo, veramente faccio fatica a capire cosa dici, cazzo. Boh, non lo gioco. Cosa sei combinati? Va bene, dai, ragazzi, salutoni a tutti e anche agli ascoltoni. Dai, ci sentiamo un altro momento, ok? Buona serata a tutti, ciao. Ma stai facendo la lampadina? No, negativo. Ah, credo la lampadina dell'apparato, di quello là. Va bene, avanti Antonello per i saluti. Ciao Lubrofetta, ci sentiamo, stavi bene. Ma quanto avevo riconosciuto la verità, prima chiesto. Quindi, io da te dunque mi hai sentito per tanto. Ogni tanto quando si pulisce l'ambiente lì, se sei vecchio entri per sicurezza, sai che te ne fai che vuoi un'antenna, cazzo. Ciao Gianni, buona serata, buon tutto, già ci risentiamo nei prossimi giorni. A te Marco. Eia, che ore sono, gente? Perché non ho né orologio, c'è quello a parete senza batteria, orologio a polso non ne ho, che c'è rotto il cinturino, sono senza cellulare, non so manco dove sia, che ore sono? 18:13. Eia, allora 5 minuti e vado. Ok. Che altro dire, sono senza parole, c'è una narice fuori uso, la narice sinistra, non riesco manco a parlare, mi devo mettere un po' di mistura lavandini per nasi, vedi, rinazina, a certe volte mi si chiude, è una cosa allucinante, mi dà proprio fastidio anche nel parlare eccetera. Capisco, è fastidioso, sì, è stagionale oppure diciamo ce l'hai cronica questa rottura di balle di narice chiusa? No, più che altro è la conformazione dei turbinati, no? Della narice sinistra. Sì, ogni tanto si congestiona tra peli di gatto qua, polvere, coso, poi quando sollevano la sabbia che vanno nel loro gabinettino, no? Quella sabbia per gatti, c'è una parte di pulviscolo impalpabile che è talmente fine che è più fine del borotalco stesso, per dire, no? che tu non lo vedi ma lo senti nel naso, ogni tanto si congestiona, poi magari passano alcune ore e si libera anche da solo, però certe volte mi burio e mi do l'aiutino farmaceutico. Bene, bene, dai, quando ci vuole ci vuole. Allora Antonello, cosa mi racconti? Era da un bel po' che non ti sentivo anche io in radio. Io sono entrato circa un paio di settimane fa e di sera ci sentiamo con Marco qualche volta, anche con Gianni che ha appena chiuso, e sta entrando anche Claudio, e insomma qualcuno si sente, Antonio, sentito, l'amico di Sorso, forse Franco, lo sentivo molto basso, capito, lui forse non mi ha sentito ma riuscivo a capire quello che diceva, qualcosa riesco a captare con questa antennino, dai, poi vedo di se riesco a migliorare. Sì, gli attestati non riescono, non ti preoccupare, perché io parlavo, figurati, dal laboratorio di Prospero, che ti subite 100 metri più su, con una gran plate lì messa a un metro, e mi sentivano tranquillamente al solito segno, eccetera, eccetera, capito? Anche a casa stata addirittura arrivato. Era Alghero, che era molto strano, la verità. Sì, dai, adesso l'antenna l'ho girata, come mi avevi detto tu, l'ho messa su quel lato lì, però c'ho anche l'altra via a disposizione, perché il terrazzo va a L ed è su sia via Pisteta che via Pola, e quindi vedo un po' adesso dove, dove prende meglio, adesso la sto tenendo lì su via Pisteta, poi uno di questi giorni provo a spostarla e vedo dove va meglio. Lascia la via Pulizzetta che è meglio, è la zona più aperta che c'hai, hai capito? Vedi la zona di Alghero da lì, quindi a parte Monteroma, vedi la zona appena appena di Alghero, lasciala così com'è. Ehi Antone, poi già lo sai, c'è WhatsApp quando ne hai voglia uno di questi giorni. Adesso domani rientro a lavorare e avevo un paio di giorni, infatti ne ho approfittato per fare tante cose, e oggi era anche il compleanno di mia figlia e ieri notte siamo andati a cenare fuori, io, mia figlia e mio figlio, stamattina con mio figlio poi siamo andati, come dicevo prima, a portare i fiori ai nostri defunti e niente, e adesso di sera a casa facendo sempre, inventando e cercando di migliorare la casettina che mi sono preso, dai, piano piano. Fai bene, così bisogna fare, migliorare piano piano le cose. Io sono lì a casa con Simona e quindi sono uscito stamattina, io, Marco Micchi, siamo andati a fare la spesa, mia sorella. Il tuo telefono deve prima avere una casa wifi o mobile? No, tu hai quello, sono tutti lì, cazzo. E poi sono entrato a casa, le due e mezzo sono andato a casa, no? Ho fatto il pranzo, eccetera, eccetera. Quindi, figurati tu. Chi è che mi chiama? Abusivo. Ah, Marco. Non sono abusivo, c'è un'antenna esterna e... Siamo due abusivi, io e Daniele, mio nipote. Capito bello bene. No, stavamo giocando con Antonello, Carlo, gli ho detto in PMR abusivo e quindi l'avrei sentito anche. Sì, già ho capito, si sentiva il bip del PRM. Allora c'è una cosa, un bel strano, cazzo, non me ne sono accorto io, sono accorto Daniele, mio nipote, si è comprato, visto l'ultimo PMR che hanno fatto della Barfeng, l'F5R 10 watt e cosa genere, che ha 1500 mAh di batteria, non c'ha più la base per metterci le portate, ma bensì la carica da computer, oppure con l'alimentatorino, quello che si installa nei telefonini. In pratica c'è la frequenza pari, se la conto 2000 nell'888, se in pratica posso essere per dire 446.081.25 e 081.20, hai capito? Se la conto 2000 se la conto, c'è quello che c'è il bip in me, quello che mi hai fatto tutto, ricordi? Sì. Ho capito. È quella Boateng che ne fa di tutti i rigori di radio, costano proprio una fesseria, ma ce ne sono anche di evolute. Ho visto che addirittura su AliExpress ce n'è una VHF, UHF, DMR, fa da radio, senti le frequenze solo in ascolto della banda aeronautica, mi va di poco di cose, e costava 47 euro, una fesseria. Esatto, bravo, proprio quelli. Uno di quelli prenditi, che prendi una bella antenna, a me lo capo, ascolti, non puoi dare il 27, anzi, c'è un modello di barattino che ho dato la 27 che c'è il loop display, la verità. Io mi ricordo che c'era un modello, se non ricordo se è Bonfeng o cosa diavolo era, partiva dalla 27 e andava fino ai 520, cioè in trasmissione andava anche il 27 addirittura. Sì, guarda, in origine era il Quansheng. Quansheng mettevi firmware personalizzati e potevi farlo trasmettere in 27, forse anche più in basso. Naturalmente in SSB non credo assolutamente, presumo in FM. Poi hanno fatto questi iRadio, RadTel, no? Quello bello, che riceve tutta la KF in SSB e poi alla fine è una radio che fa VHF, UHF, dovrebbe trasmettere in 27, in VHF bassa, VHF, UHF, la classica, credo che non vada oltre, e in più però ha un'altra scheda per ricevere solo la KF e ha due ingressi antenna separati. C'è un ricevitore più un ricevitore HF con la SSB, quella è già una bella radio, è di colore grigio, credo che d'aspetto sia la più bella, display a colori, e quella costa un pochino di più, però siamo sugli 80-90 euro credo. Va bene, mi sono scocciato di comprare radio e basta, poi ricevitori ne ho già, HF, quindi non ne spendo più soldi. Va bene, signori, vista l'ora io mi ritiro in buon ordine e mi guardo quello che mi devo guardare. Ciao Antonello, ciao Carlo, ci sentiamo quando capita, ok? Vai Carlo. D'accordo, ciao Marco, buona serata, buon tutto, ci sentiamo alle prossime, vai Antonello per i saluti. Ciao Marco, ci sentiamo, stammi bene. Buon tutto, non c'è problema. Ah, ovviamente riceve anche la banda aerea, il modello, l'ultimo che vi ho detto, ma anche il Quansheng, molti ormai di quegli ultimi ricevono anche banda aerea e ormai molti hanno la ricarica tramite USB-C, non hanno più la basetta solita. Sì, qualcuno ha la basetta che va lo stesso con la USB-C, quindi sono versatili. Va bene, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, alle prossime. Antonè, allora, cosa mi racconti di bello? Stai lavorando o cosa stai facendo? Nuda? Nulla, mi sto grattando le palle, più che altro ogni tanto. Vado in bagno, mi faccio la voce, mi gratto le palle e poi riesco. Cosa vuoi che faccio? Oi. Vado a fare la spesa, poi rientro qua e poi sono qua a casa, eccetera, eccetera. Dove puoi andare? Ogni qualche volta vado al circolo da lì, dopo la birra, fino alle 8:30, nelle offre, e poi rientro a casa. Dove puoi andare? Lui. E io lo stesso, io ho ancora il lavoro e ci dovrò andare fino a 67. E niente, quando ho giorni liberi, anch'io, la sera, quasi tutte le sere, me ne sto a casa in relax, dopo che ceno mi vedo o film, oppure io seguo un po' il calcio, non è che sono super fanatico, però, capito, se ci sono partite di clou, insomma, Serie A o Champions, queste cose qua già me le guardo. A volte guardo qualche po' di Formula 1 quando si vede, poi per il resto qualche serie TV, capito, d'inverno soprattutto esci di un pochettino di meno, e poi le solite cose, vai a fare la spesa. La casa, Antonello, da quando eri venuto su, diciamo, ci ho fatto qualche piccola modifica, mi avevo sistemato tutta la camera da letto, capito? C'ho una scrivania bellina adesso, fatta dal falegname, con libreria, ci sta il computer, ci sta la radio, c'ho la stampante, insomma, ho un bello spazio, tre cassettoni belli capienti, poi mi ha fatto la cabinetta armadio, perché io l'armadio non ce l'ho in camera da letto, ma c'era uno sgabuzzino per fare la cabina armadio, quindi dal falegname mi ero fatto fare la cabina armadio. Non mi ricordo se tu l'avevi vista, se c'era, oppure, capito, l'ho fatta dopo. Dimmi tu, Antonio. No, c'era, a vedere che c'era. E allora, perché non mi ricordo quanto tempo fa sei venuto, dai, quindi non mi ricordavo. Poi vabbè, mi ero preso il divanetto, ho sistemato la TV sulla parete, così la posso girare come voglio, perché io, già l'hai visto, c'ho l'ambiente unico, soggiorno cucina, capito. Adesso nel bagno mi sto mettendo il mobiletto nuovo, la specchiera, capito, il lavandino nuovo, perché quello che avevo l'ho trovato quando ho acquistato la casa, me l'avevano lasciato, però era poco pratico, non era per niente ergonomico, ti sbattevi e diciamo non era fatto molto bene, quindi ne ho preso uno che mi dà tutto il piano libero, lo specchio più in alto, capito, e non mi sbatto da nessuna parte, rimane sulla parete lo specchio, invece quello là era poco sporgente, capito, c'erano degli spigoli che davano fastidio. E niente, poi dopo di questo cambierò la cucina, perché quella che ho lo stesso me l'hanno regalata, è quella che c'era qua nell'appartamento, diciamo è nuova, ancora funziona, c'è la lavastoviglie, c'è il frigorifero, c'è tutto, però non mi piace il colore, e appena insomma finisco questa del bagno, a inizio anno, così se ho tempo andrò in giro per qualche mobilificio, tipo il mobile, un po' fuori Sassari perché ti costa di meno, e vedo un po' cosa trovo, capito, e così mi metto una cucina un pochettino più moderna, tanto la mia è una cucina angolare, ho 3 metri da una parte e 2 metri e 70 dall'altra, quindi è abbastanza grande lo spazio, e vediamo un po' in seguito cosa riuscirò a fare, dai, poi se ci un giorno che ne hai voglia, se sei libero, se vuoi ti vengo a prendere io, capito, e pure così non stai lì a farti la traversata tutta di Piazza dei Segni a scendere qua. Io non c'è problema per quello, io lo sai. Ma si è cambiato parecchio. Come mi ascolti con questo? Meglio o peggio? Ti sento bene, già ti sento, c'ha l'effetto eco, però non è niente di fastidioso, capito? Va bene, cos'è questa? Che radio è? adesso ho diminuito il watt. Dovrebbe essere aumentato la radio, o sbaglio? Esatto, esatto, sì sì. Diciamo è meno compressa anche la voce, capito? Cioè è abbastanza più vasto, infatti si è sentito subito. Infatti, ok. Adesso sì, mi metto in questo, dovrebbe essere... figlia eccetera eccetera. Beh, quando uno c'ha un funerale che è morto da poco, secondo te vado a girargli i coglioni, no? Non sono di quei caimani io. Adesso aspetto un paio di settimane, cioè un paio di settimane, aspetto una settimana e poi vado a controllare vedere cosa, se c'è quella roba mia, se c'è quella roba mia te la do e sei a posto, non c'è problema. Ok, siamo usciti 10 giorni fa circa, capito? No, mica sto dicendo di tanto di oggi, non sta scherzando, oggi sono esatti. Vabbè, Antone, non c'è problema, non vuol dire se ce l'hai. E allora Carlo, che mi racconti, sempre l'altro bacche? E niente, sempre al lavoro, facendo i turni, adesso dovresti sentirmi più forte. La radio è molto, sempre 5, super, perfetta. Antone, il mio segnale si è aumentato, sempre uguale. 9,25 sei qua. E adesso ho attaccato. Stai andando uscendo bene, come ti ho detto io. Tutto deve stare, cioè, a salire sopra, fatti il sangue cattivo. Aspetta un pochettino, parli con come si chiama, con capo con nome, dopodiché dici guardi, ascolti, io vorrei installare questa stazione qua, eccetera, eccetera, vorrei il suo parere, faccia la riunione con il mio quello che è. Siccome non sono obbligato a dargli la documentazione per niente, perché ormai è legalizzato e cosa vuol dire, la installo, la voglio installare bene e basta, tutto lì. Quindi lì faccio la riunione e mi dia l'ok. Una volta che ti dà l'ok saliamo sopra e la piazziamo l'antenna. Esatto, esatto, e appena appena viene bene, adesso non voglio forzare troppo la mano, per adesso diciamo che mi accontento, almeno ho ripreso, capito, quattro chiacchiere riesco a farle così, quindi me ne sto buono buono, poi vediamo un po' più in là sicuramente, vedrò di sistemarla sul tetto se riesco. Aspetta Carlo, guarda che io ho anche un documento della Gazzetta Ufficiale che tu puoi installare l'antenna con tutti i tuoi diritti. Ne avrò 11 fotocopie. Esatto, sì, grazie. Se ce lo hai, magari o me lo invii su WhatsApp, dovresti avere il mio numero, oppure già ci vediamo, ci prendiamo un caffè da qualche parte e così se hai una fotocopia me la tengo e nel caso poi la farò vedere dicendo che non crea nessun disturbo e che è tutto legalizzato, per cui dovrebbe insomma andare bene. Scatta, non c'è problema, dai, mi ci vediamo, dai, ci vediamo un bel caffè, ci vediamo che siamo da molto senza vederci. Tutto qua, bene Mira, per me è un grandissimo piacere Carlo, dopo tanto tempo, infatti non l'ho più sentito, domani chissà che fine ha fatto Carlo. Pensavo, ho sbattellato tutto, oppure sto facendo tanti lavori e finisce tardi, non ha neanche voglia di accendere l'apparato. Vabbè, comunque mi devo dire, ti metti l'antenna. E cosa stai facendo adesso? Un antennino dentro casa? No, ho messo un antennino sulla ringhiera del terrazzo. E come ti arrivo come segnale? Buono? Prova a fare un altro passaggio. Ok, 1, 2, 3, prova di modulazione, tutto qua. La radio è buona e il segnale qua è 7, capito? Il Santiago 7. Ecco, per capire che io non sono a Sassari, io sono delle grandi campagne vicino alla zona San Camillo. Tu sei arrivato Santiago 9 qua, 995, radio perfetta. Già va bene. Comunque, insomma, mi fa piacere, dai, che ancora c'è qualcuno su 10 e ogni tanto quattro chiacchiere fa piacere farle. Ma che gli voleva entrare, che sentivo qualche modulazione sottofondo che non riusciva a passare? Chiamo anche uno che stavo cercando di entrare, ma non ho capito chi è. Davanti a te. Ehi, questa canzone c'è parecchia. Americano, ma già quella è quella. Comunque, già ci sentiamo tra noi, non c'è problema. E sto usando questo qua di apparecchio. Ma poco facciamo le 140. Adesso sto usando l'87 modificato con l'effetto Colt. Il K ce l'hai ancora, Antone? Sì, è stato poco fa quando sei entrato. Il 140 è sempre operativo, quello che ho io. Funziona sempre, non ha nessun problema. Ho capito. E prima o poi qualcosa di più serio anch'io me la prendo. Capito. Adesso vedo un po' come organizzare il tutto. Se riesco a mettere l'antenna e ne vale la pena, prenderò qualcosa di più prestante. Ma se hai problemi te lo presto, mi dicendo qua, non è quello il problema, già lo so come lo tieni tu con gli apparecchi, non è che ti do l'alimentatore, ti do l'apparecchio, attacchi l'antenna e stai andando con il microfono come vuoi tu, normale, amplificato, quello che è, e almeno lo provi, non lo sto mica vendendo naturalmente, come sto dicendo. Perché non ho già cambiato quattro di questi apparecchi, li avevo quasi tutti venduti, quindi a un certo punto adesso me lo tengo e va a far cuffia, capito? L'unica cosa che mi sono preso in più è il coso, questo, l'87, perché mi piaceva, l'avevo sentito e me l'ha venduto un amico, capito? C'era 50 euro, vabbè, cosa vuoi di più? Fai bene, io lo stesso ne ho due solamente di radio, me ne sono rimaste, ho questa piccolina e quella che avevo in macchina e l'ho sistemata qua adesso perché me ne ingombrate dell'altra e l'altra ce l'ho giù in garage. Figurati. Se vuoi provare, volta dimmelo, te l'ho detto un'altra volta, quando vuoi qualche, provare qualche apparecchio dimmelo, te lo usi, ti do l'alimentatore, ti do l'apparecchio, lo usi, il microfono e così ti ripeti un pochettino, ti riferti, me da ascoltare o parlare in coso, nei canali alti, cose del genere, AM, banda laterale, non è essere come questo baracchino qua, capito? È totalmente diverso, quando parli, io quando chiamo l'Ucraina sembra di essere al telefono, mi rispondono subito, mi rispondono, capito? Immediatamente. Lo credo, poi tu già sei anche bello in alto e c'hai l'antenna esterna, quindi già va. Io purtroppo, già lo sai, là non ci sono più e qua adesso è tutta un'altra storia e bisogna vedere. Ci ho rimesso io con l'antenna grande, con la mantova, ci ho rimesso parecchio, ci ho rimesso 300 euro, più di un'antenna mi è costato, capito? E quindi non ne prendo più antenna così, o né quella né tantomeno quelle che stanno facendo adesso, non ne prendo più, ti va bene una BA27L come quella che sto usando adesso, come vuoi chiamare tu, una Mercury, è leggera, salgo quando voglio, la smonto e non ho nessun problema per scendermi un taglio in casa, questo è poco ma sicuro, perché io ci ho rimesso tre televisori, quindi mi sono fatto il conteggio, a un certo punto con la mantova, turbo, non mi è convenuto un tubo a verra e non ne prenderò mai più di quelle antenne. L'ho avuto 10 anni, 15 anni, quello che è, non mi è mai successo un cazzo, però d'ora in poi finito, antenne così, non ne piglio più, né mantova, né quelle che stanno costruendo adesso, che sono belle, che sono belle grosse, eccetera, eccetera, sono performanti, non ne piglio più, è cambiata totalmente la cosa e io non voglio avere la paura di notte, cazzo, di trovarmi la casa incendiata, questo è poco ma sicuro. Meglio che si incendi un'antenna di cazzo che si incendi l'appartamento di casa, lì che poco ma sicuro. Va bene Antone, io ne ho due di antenne, ho la SD27 che la posso mettere verticale e orizzontale, leggera, inizialmente usavo quella, poi avevo preso la J-Pol, quella della Smartec, che è una cannonata, se riesco a metterla sul tetto, quella ho fatto bingo, tanto quella lì la piatti, la metti lì e ce la lascio sin che dura, capito? Solo quelle c'ho io di antenne esterne, poi di antenne di macchina ne ho diverse, di quelle già ne ho diverse. E beh, Tony, riprendi. Non è anch'io che entro spesso e volentieri. Molto tabacco e quindi ho fatto un tabacco con tabacco vicino a casa tua, a quelle zone. Ho fatto un bel lavoro stesso, impianto elettrico. E io c'era sempre l'antenna staccata. Io quando penso a modulare, non voglio modulare domani, dopo domani, allora una settimana cosa fa? Stacco l'antenna, butto in terra, poi basta. E così, tanto. C'è poca gente, quasi nessuno che... Lo so, dai, sempre i soliti siamo, ho visto, non c'è nessuno che è entrato di nuovo, capito? Finché, insomma, c'è voglia di fare qualche chiacchiera, ogni tanto ci si sente di sera, perché durante il giorno molte volte io accendo, ma non entra nessuno, capito, di mattina per esempio. A volte lavoro il pomeriggio, quindi di mattina sono a casa, provo a accendere, a chiamare, ma non senti nessuno. E capisco che magari la gente dedica solo un paio d'ore, un'oretta, insomma, alle chiacchiere sulla radio. Finché ci sarà qualcuno le teniamo un po' accese e poi alla fine si spegnerà tutto, ma io penso che prima o poi già ritornerà anche la moda, perché la radio attira un sacco di gente comunque. Ad Alghero so che ci sono sono tante persone che avevano smesso da 20 e passa anni e adesso hanno tutti ripreso, addirittura anche un signore anziano in via Ricoforta si è messo un'antenna sul tetto, perché me l'ha detto un mio amico, un mio collega di lavoro che è radioamatore, e mi ha detto che stanno sul canale 15 e ci sono almeno una trentina di persone che stanno modulando, capito? Quindi a volte qualcuno ritorna. Vai Antonè. Sì, già lo so anch'io, c'hanno il sito, c'hanno su internet, quindi parlano o sul sito di internet oppure direttamente in 27 sul canale 15. Ce lo so anch'io quello già, ce l'ho anch'io il sito qua, però non è che cazzo, devo stare ogni volta a cancellare 118, 120, cioè un coso, hai capito? Però vabbè, è bello perché almeno li ascolti un po' quelli che modulavano una volta, quindi va bene, mi piace anche a me, però non è che ci abbia tutto questo tempo io con Simone, capito? A stare a baracchino 24 su 24 come facevo una volta, adesso ormai farò sino a 2 ore, forse 3.000, già l'ho visto Tonino che non sono andato più quasi per niente, ridurati tu, mi sto dedicando a casa. Anna bene, benissimo ragazzi, io adesso ci sono quasi un'oretta adesso in radio, mi preparo un po' la cena, capito, e poi c'ho qualche camicia da stirare, sennò domani mattina non posso andare a lavorare e quindi mi metto a fare queste cosettine. Rimango in ascolto, però devo attaccare appunto perché il dovere mi chiama. Ci sentiamo alle prossime, un caro saluto Tonino e un caro saluto all'Antonello, dai. E ci sentiamo nei prossimi giorni, tanto più o meno io a quest'ora ci sono quando non sono al lavoro. A te Tonino. Senta, e tu quando è che sei libero, diciamo così, ci prendiamo un caffè e ti do quel foglio. Guarda Tony, adesso io ero libero il 31 e l'1, adesso faccio domenica, lunedì, martedì, mercoledì, sono libero giovedì. Nel caso ci sentiamo giovedì e ci vediamo da qualche parte, capito? Io tanto attacco la mattina alla radio e se ti ritrovi il mio numero su WhatsApp mandi un messaggio, capito? E se no già mi chiami alla radio e già ti rispondo. Ok, giovedì mattina senz'altro ti mando un messaggio, dai, così ci vediamo. Va bene caro, mi ha fatto piacere sentirti dopo tanto tempo, una bella stretta di mano, stammi bene con tabacco, con tutto, buona cena quando lo farai. Ci sentiamo a giovedì prossimo, stammi bene, ciao Carlo, avanti Antonè. Io, ciao Carlo, ci sentiamo. Buon giovedì a questa settimana là, appena sei libero basta chiamare, non c'è problema, ci diamo una birretta, quello che è. Non c'è problema, già lo sai. Eia, ciao, salutoni e buona serata a tutti, alle prossime, già ti chiamo Antonè. D'accordo, non c'è problema, già sono a casa, sono a casa, sono a fare la spesa, discorso è quello. Adesso sono a casa, adesso vediamo un po' se Nico, che fa Nico, se Nico è libero, al circolo, ci vado 10 minuti, bevo una cosa e poi me ne sarò a casa, anche se non c'è il tram, non me ne fanno parte un cazzo, ma sto a uscire, sono più di 2 settimane che non esco, un accidente, sembra in galera sempre, mi sta venendo la paranoia. Basta uscire Antonè, io ero qua, sono entrato poco fa, sono andato a prendere della roba che mi serviva, che non avevo in casa, quindi, ma io ogni giorno 4-5 volte sono a casa, non so se sono in casa, no? A volte sono mattina, torno la sera, fate il conto. se vuoi uscire in 10, qua c'è il tuo turbo per andare là. No, ma va bene, non se ne frega il turbo. A me lo fa le gambe, stamattina mi sentivo meglio camminando. Sono uscito con eravamo io, Giovanna e Marco. Marco Micchi. Siamo usciti a fare la spesa assieme dallo Spipo, siamo andati alla posta, eccetera, eccetera, capito? Ci abbiamo bevuto una cosa lì invece Vita Vecchia e poi sono entrato a casa. Ho cucinato, ho fatto il pranzo e poi sono entrato qua. Capito? Meglio, va bene, dai. Ok, adesso che fa bene camminare, io ho già camminato anche troppo, non in macchina, si intende, in macchina sì, mi devo provare a muovere in macchina qua, nella città, però lascio anche la macchina dove la devo lasciare, poi vado a B, non c'è problema, a meno che devo prendere un po' pesante, allora la macchina me la porto sotto la Revuzio. Ah beh, quello sì, una cosa logica quella. No, io devo fare una bella passeggiata da qua, a giù via Levante, da Levante, poi salire su, oppure fare come si chiama, quando faccio la spesa, devo fare via Carlo Felice, tutto in discesa va bene. Il problema è quando c'è il peso che è in salita, cazzo, che c'hai il booster, che ti trovi a sopportare 15 kg da una parte e 15 kg dall'altra, a un certo punto a 60 anni pesa, non è come avere 20 anni, capito? Prima ci portavo i cosi con quei bidoni di tinta pieni di cemento e la salita la facevo tranquillo. Adesso ormai c'ho l'età che c'ho e quindi ne risento, capito? Viene un po' pesante. Non è che si crocifisce, no? Sei molto più giovane di me? Vabbè, sono più giovane di te, ma cazzo, devi contare che io sono qua a casa sempre, capito? Non posso stare... Tu sei sempre in giro, sei sempre in movimento, io no. Quindi a un certo punto le gambe si addormentano, non hai niente a credere, no? Se tu a un certo punto ti rimani tutti i giorni a casa, vedrai come si ammolliscono i muscoli, capito? Il discorso è quello, finché sei tutti i giorni in movimento, un discorso. Quando non ti muovi, stai 3, 4 giorni, anche 5 giorni, in cosa del genere, te lo senti subito, non lo senti. Ti viene l'affanno, ti viene, capito? Però ti viene leggero, te ne accorgi subito, te ne accorgi. Te la sai, te la fai come niente, con dei booster di spesa. Ma non c'avevi quel mezzo batteria, Antonio? Che fine ha fatto? Quella cosa lì, per carità, la cetarina in pratica era ossidata e quindi non funziona più e vaffanculo, ce l'ho buttato nel garage, ce l'ho buttato. C'è 300 euro di batterie e ce l'ho buttata nella moto, hai capito? Adesso le staccherò e le userò per comprarmi un pannello solare, le uso per i pannelli solari, vaffanculo. Non ci vuole molto a usarla, a me lo cazzo soffrisco un pochettino di corrente a gratis. Vabbè, almeno qualcosa è comunque. Vabbè dai, ti lascio andare, io vado dentro e mi preparo la cena per stanotte. Ok Antonio, dai, ci sentiamo. Ciao, state bene, alle prossime. Ciao ciao. E io, ciao Tony, ci sentiamo, stammi bene. Buona cena, buonanotte, buon tutto, alle prossime, ciao ciao ciao. Ok, ciao. C'è nessuno nascosto. Ora, blecco, prova 1-2-3, 1-2-3, cambio su 10 qua, San Fido al Golfo della Ginara. C'è nessuno? Beh, Ciccio, butta giù la pasta che è pronta.